Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Oggi parliamo di acqua. Questa settimana se n'è già fatto un gran discutere perché lunedì 22 è stata la giornata mondiale dell'acqua e in piazza hanno manifestato la settimana scorsa i movimenti contrari alla cosiddetta privatizzazione dell'acqua. Allora riprendiamo e approfondiamo questo tema con il professor Giovanni Fraquelli, docente dell'Università del Piemonte Orientale e direttore di Hermes, che è un centro di ricerca sull'economia ed il diritto dei trasporti pubblici locali e dei servizi regolamentati, quindi un esperto in questo settore. Nel colloquio sentirete parlare molto di ATO, e cioè Ambito Territoriale Ottimale. È un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico. Questi ambiti sono indicati dalle regioni e nel caso del servizio idrico dovrebbero fare riferimento ai bacini idrografici. Dovrebbero, perché non sempre è stato fatto così in Italia. In Sicilia, ad esempio, sono stati fatti coincidere gli ATO con le province. Sugli ATO agiscono le autorità d'ambito, anche di queste sentirete parlare. Sono strutture che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato. Questo lo diciamo a mo' di introduzione, come a mo' di introduzione diciamo che gli ATO e le autorità d'ambito sono destinati a morire, e questo per effetto dell'articolo 15 del decreto 135 dello scorso anno, che è esattamente quello che contestano i movimenti per la ripubblicizzazione dell'acqua. Sentiamo il professor Fraquelli. Nel 94, quando si è attivata la legge Galli, avevamo un settore che era terribilmente frammentato. Il settore contava più di 10.000 operatori e queste attività erano gestite sostanzialmente dai comuni. A dire vero, avevamo anche un certo numero di imprese e nei maggiori centri effettivamente avevamo delle attività di imprese, però la maggior parte dei comuni gestiva direttamente il servizio. Primo risultato significativo, l'obiettivo direi, e peraltro è anche un risultato, è stato quello di creare questi ambiti, cioè delle strutture che in qualche modo si occupassero in modo sistematico e imprenditoriale del problema dell'acqua, e quindi si è portata l'attenzione su una gestione di tipo imprenditoriale. Questo è un salto non marginale, perché questo vuol dire pensare ai costi, pensare agli investimenti, pensare alle tariffe, cioè avere la consapevolezza di una risorsa e di poterla gestire con una certa logica, che è una logica di impresa. E questo era negli obiettivi della legge, e peraltro si sono ottenuti dei risultati, perché il territorio conta un centinaio di ambiti e in questo contesto c'è stato un primo grosso risultato, che è un processo di accorpamento delle imprese. Ora le imprese, questo processo non è completo, c'è ancora una struttura in molte realtà frammentata, parecchio frammentata. C'è ancora molto da fare, però molti risultati si sono conseguiti, c'è stato, voi siete addirittura riusciti a quantificare, questi risultati, no? Quello che sì, fanno. Sì, allora, voglio dire, con la creazione degli ambiti si sono costruiti dei piani d'ambito, no? Si sono costruiti dei piani d'ambito, e noi abbiamo esaminato, su una novantina di piani d'ambito disponibili, ne abbiamo esaminati una cinquantina, e nell'ambito di questo esame ci siamo occupati prima della domanda, di capire come veniva quantificata la domanda. Abbiamo fatto un primo lavoro, poi abbiamo abbinato la domanda ai costi, quindi le quantità prodotte ai costi, e abbiamo quindi cercato di capire quali erano i criteri di costruzione di questi piani d'ambito, e indubbiamente si ha in questo modo una prima visione del fenomeno che riguarda il processo di investimento. Allora, nella costruzione di questi piani d'ambito, che cosa succede? Succede che da una logica di brevissimo termine, che è quella della logica della gestione comunale, si passa ad una prospettiva che in alcuni casi va sui 20 anni e arriva addirittura a 25 anni, quindi si passa ad una logica di valutazione dell'investimento nella sua globalità, e questo è un fatto certamente positivo. Magari è l'aspetto costi che va un po' meno bene. Sì, effettivamente vengono fuori dei problemi, perché Nella maggior parte dei casi, cioè, noi riscontriamo che ci sono divari, cioè, ci sono carenze di efficienza dell'ordine del mediamente del 30%. Se noi ragioniamo sui consuntivi, questo può essere accettabile, cioè sul mercato ci sono operatori che sono efficienti e operatori meno efficienti, ma se pensiamo a dei piani, indubbiamente il piano dovrebbe portare a condizioni di efficienza, dovrebbe mirare evidentemente a livello di piano, io devo gradualmente portare gli operatori a traguardi di efficienza. Ora, il fatto che si colga nell'ambito di questi piani un divario di efficienza dell'ordine del 30% vuol dire che c'è molto da fare, indubbiamente dall'idea, cioè dall'idea iniziale, che è un'idea a mio avviso validissima, cioè quella di creare i presupposti per un processo di accorpamento. Quello che è venuto a mancare è stato un ruolo autonomo e diciamo sufficientemente propositivo in termini di efficienza da parte di queste autorità. E nel breve termine però c'è anche questo decreto del novembre scorso che ha un po' rimescolato le carte, e qui come la vediamo, quindi il futuro allora, di questi ambiti? Il problema è questo: quando si parla di privatizzazione, allora a mio avviso occorre una certa cautela. Se noi nel giudicare questo decreto spesso si pone l'enfasi sul discorso della privatizzazione. Ora il problema è che l'acqua è una risorsa che deve essere gestita con competenza, programmando investimenti, e quindi occorre una gestione d'impresa. Cioè, questo penso che sia fondamentale. Sappiamo che è una risorsa fondamentale, una risorsa che deve essere gestita in condizioni di efficienza, ma comunque deve essere gestita. Se questo processo porta all'ipotesi di condurre la gestione del servizio nuovamente a livello comunale, come si suol dire in economia, cioè gestito direttamente dal comune, a mio avviso è un salto, è un processo involutivo, perché in un contesto di quel genere nuovamente nasce un'ottica di breve termine, non si ha la consapevolezza, si perde la consapevolezza del costo della struttura, perché alcuni sostengono, cioè la tesi dominante è che con la costruzione degli ambiti le tariffe sono aumentate. Ok, le tariffe sono aumentate, ma in precedenza il cittadino pagava il costo dell'acqua indirettamente, nel senso che era confuso negli altri costi di gestione del comune. Quindi c'è il rischio di, se noi torniamo nuovamente ad una gestione che non è una gestione, che non sia una gestione di impresa, torniamo nuovamente a gestioni a carattere comunale, dove non si ha la consapevolezza dei costi. Miope sicuramente. Ecco. Sì, e quindi se non si ha la consapevolezza, se non abbiamo la consapevolezza dei costi, diventa poi difficile stabilire delle tariffe adeguate. Quindi magari le tariffe non vengono ad essere ridotte, ma questo vuol dire che non è che l'acqua costi di meno, è che l'acqua, cioè il costo dell'acqua, non si ha consapevolezza del costo dell'acqua. E poi verrebbero meno anche una logica di investimenti strutturata, perché all'interno del settore sono necessari investimenti ingenti, mi riesce difficile pensare alla possibilità di gestire un processo di investimento così consistente in un contesto che non sia un contesto di impresa. Cioè, quando parlo di impresa intendo dire un'impresa che può essere un'impresa pubblica o un'impresa privata. Ma con una veduta, ecco, insomma, dico, con un'ampiezza, cioè, la logica di vedute. Però una logica manageriale, ok? Però accennavo al decreto e alle conseguenze di questo decreto sulle autorità. Evidentemente le autorità verrebbero ad essere cancellate. Ora il problema è che si potrebbe riconsiderare il ruolo dell'autorità, perché indubbiamente non è che possiamo pensare di gestire un settore in assenza di autorità. È vero che in alternativa, se ci fosse la possibilità di attivare delle gare effettivamente competitive sul territorio nazionale, potremmo in qualche modo raggiungere, proprio attraverso la competizione tra i vari operatori per acquisirsi la gestione di un determinato ambito potremmo ottenere degli effetti di miglioramento e di ottimizzazione dei costi anche attraverso la competizione tra gli operatori per acquisire il servizio. Però ma non c'è questa possibilità, da come l'ha detto sembra che non ci sia. Il problema è questo, che per creare delle gare competitive occorrono degli operatori robusti, okay? Che siano che in qualche modo presentino la capacità di competere. Ora, se non abbiamo delle imprese sufficientemente robuste, diventa difficile creare competizione. Allora cosa succede? Che a livello locale le singole realtà cercano di proteggere le loro strutture e quindi non si innesca un processo competitivo. Allora quello che a noi pare importante è non rinunciare all'autorità, ma di passare da un'autorità locale, qual è quella attuale, ad un'autorità nazionale strutturata con una certa dimensione e con figure competenti che in qualche modo possano effettivamente dialogare ad armi pari con operatori che hanno indubbiamente strutture e risorse più consistenti. E quindi insomma per chiudere questo decreto non ha in sé degli elementi di male, ma forse manca tutto un ragionamento sul passato, su quello che abbiamo acquisito e su quello che stiamo cercando di fare anche magari. Allora, in effetti il decreto può portare a dei risultati differenziati a seconda di come poi si gestisce questa situazione, questa eventuale situazione di assenza nel breve termine dell'autorità, perché come dicevo l'idea di dare continuità al processo di accorpamento e far sì che ci siano degli ambiti, cioè ci siano dei gestori di una certa dimensione è importante. Nel breve termine l'eventuale assenza dell'autorità andrebbe riconsiderata, perché indubbiamente il settore poi verrebbe a mancare proprio di un controllo dal lato delle tariffe. Allora ci sarebbe indubbiamente il rischio che in assenza di totale di autorità locali gli operatori evidentemente costruiscono le tariffe a loro piacere e quindi potrebbe esserci un effetto addirittura negativo, in quanto effettivamente ognuno poi anziché avere una riduzione effettiva delle tariffe si potrebbe avere un aumento delle tariffe, motivato sia dal fatto che il singolo operatore avrebbe la possibilità di costruire in proprio le tariffe e motivato dal fatto che non ci sarebbe poi il minimo incentivo gestire le condizioni di efficienza del comparto. Adesso ho parlato di efficienza, ma indubbiamente il discorso riguarda anche la qualità del servizio in senso lato. Così quindi il professor Fraquelli su questo famigerato decreto dello scorso anno. Per chiudere, restiamo in tema di acqua con il sindaco di Imola, che nei giorni scorsi ha firmato insieme con oltre 200 colleghi dell'Emilia Romagna un impegno a incentivare l'uso dell'acqua di rete, l'acqua del sindaco insomma, incentivarlo in tutte le sedi pubbliche a fronte dell'impegno dell'azienda che gestisce il servizio, e cioè ERA, a garantire la qualità dell'acqua erogata. Un progetto quindi che coinvolge centinaia di migliaia di cittadini italiani. Sentiamo Daniele Manca, il sindaco di Imola. Sono convinto che abbia al suo interno questa battaglia elementi di coerenza molto importanti. L'acqua è una risorsa straordinaria dei cittadini e dunque utilizzata correttamente e con gli elementi di appropriatezza necessari può rappresentare una fonte di contenimento di costi, ma anche una grandissima ricaduta sull'ambiente. Quindi è una sfida culturale tutto questo. Questo comporta investimenti importanti sulla garanzia che l'acqua sia di grande qualità, investimenti nuovi e rilevanti che attraverso ERA noi stiamo realizzando, perché non dobbiamo mai dimenticarci che parliamo di una delle multi-utility più importanti del nostro paese, dunque dell'Italia, che ha fatto su questo segmento non una semplice voce di centro di costo, no? Salvaguardando magari più gli investimenti negli altri settori economicamente più remunerativi, ma anzi ha usato la remunerazione che proveniva da altri investimenti fatti nel settore del gas, dell'elettricità, proprio per continuare ad investire molto nel settore idrico. Nel suo comune che cosa cambierà da questo momento in poi? Cominceremo ad introdurre in tutti gli spazi pubblici gli erogatori l'acqua in modo tale da evitare l'acquisto di acqua in vetro e in plexiglass, in plastica, in tutte le attività, in tutti i servizi pubblici. Poi guarderemo anche attentamente tutti i capitolati di gara, perché alla scadenza delle gare per l'approvvigionamento degli alimenti ci sia sempre di più una particolare attenzione a tutto questo. Bene, tutto per questa puntata di Respiro, che potrete riascoltare come sempre su internet nella pagina dedicata al nostro programma. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e una buona domenica.